Tutti convocati Magazine. Sulla sinistra da sottera per Zambrotta, Rodomonti, fischio del finale, la Juventus è campione d'Italia. La partita dell'Olimpico non è ancora terminata, certo è finita in questo istante, Di Santis, è finita con il successo della Lazio per 4-2. Ed è finita anche al Delle Alpi, Roma batte Torino 1-0, Roma seconda in classifica. Dunque Juve campione d'Italia per il 2002. Io lo so che gli amici interisti non saranno contenti di ricordare quello che hanno sentito, era il 5 maggio del 2002, sono passati 11 anni, domani è ancora il 5 maggio e domani è ancora il giorno di uno scudetto della Juventus, lo scudetto numero 29, uno scudetto che certamente non arriverà con le emozioni e con le sorprese di quel 5 maggio 2002, ma che comunque vogliamo cominciare a ricordare, commentare e celebrare qui oggi. Siete tutti convocati, buon pomeriggio da Giovanni Capuano e buon pomeriggio anche ad Alessio Tacchinardi. Ciao Alessio. Ciao, buon pomeriggio. Ti ricorda qualche emozione quello che hai sentito? Mi sono emozionato nel sentire la radio cronaca, perché è stata una giornata pazzesca quella del 5 maggio, qualcosa di irripetibile, nessuno ci credeva, ma è venuta fuori una giornata incredibile. Tu eri in campo a Udine in quei 90 minuti che io credo in molti in settimana avessero sopravvalutato anche per il tipo di resistenza che offrì l'Udinese alla Juventus in quell'ultima giornata, tutti concentrati su Lazio-Inter, poi se non ricordo in meno di un quarto d'ora più o meno voi avevate sbrigato la pratica. Sì, ma è stata una settimana particolare, perché onestamente è vero che l'Udinese non aveva niente da chiedere con la partita, ma è anche pur vero che anche l'Inter andava all'Olimpico con ormai la marcia trionfale, no? Si viaggiavano tutti verso Roma pensando di vincere facile. Quindi è stata una settimana difficile, perché noi concentrarsi sulla partita con l'Udinese non era facile, però sto bravo Lippi a caricarci, a stimolarci, a dirci andiamo subito là e cerchiamo subito di andare in vantaggio e poi vediamo cosa succede. E poi ascoltiamo che cosa ci racconta la radio, e la radio raccontò del crollo dell'Inter. È una data sacra quella del 5 maggio per i tifosi juventini, per tutto il mondo della Juventus, e forse il fatto che questo scudetto, che sinceramente è scontato ormai da qualche settimana, arrivi proprio il 5 maggio è un valore aggiunto. Ma devo dire che è anche particolare, no? Dopo quello che era successo tantissimi anni fa, quel 5 maggio, che poi è diventata una data molto molto simpatica, si sono affezionati i tifosi juventini, mentre invece quelli interisti l'hanno vissuto come un dramma, sportivamente parlando, è un destino che si ripropone ancora una data così, e certo è che sarebbe una casualità incredibile che ancora un 5 maggio io possa festeggiare sicuramente con una settimana d'anticipo diversa rispetto a quello che era successo tantissimi anni fa, perché questo è quasi un mai scontato, no? Un trionfo con un Palermo che comunque è in difficoltà, però insomma è una cosa un po' diversa rispetto a quel 5 maggio, ma una data che sicuramente i tifosi juventini hanno cerchiato di rosso in maniera simpatica. Sì, insomma basta un punticino contro il Palermo, non ce ne vogliono i tifosi del Palermo, però viene davvero difficile pensare a un esito diverso domani più o meno a quest'ora, perché più o meno a quest'ora si sarà consumato da qualche minuto Juventus-Palermo, e quindi io penso da qualche minuto il popolo della Juventus sarà in festa per lo scudetto che è il numero 29, Alessio il numero 31, senza ipocrisie. Ma io dico 31 e dico che quello che la Juve ha fatto ha sempre vinto sul campo. Detto questo, dimostra ulteriormente questa forza di questa società che dopo un paio di anni, dopo la Serie B, dopo quello che è successo, si è rimessa giù a lavorare, è diventata un'altra volta in più una società solida, forte, vincente, e ha insomma strameritato questo scudetto più rispetto all'anno scorso, dato ulteriore conferma che questa società ha fame, ha voglia, ambizione, e ha fatto un'annata parliamo di campionato in maniera incredibile. Sì, io dico che mi piacerebbe che Andrea Agnelli usasse anche le ore successive a questo scudetto per voltare pagina, ma per voltare pagina definitivamente. A me spiace ad esempio che le prossime settimane saranno quasi interamente occupate dal capire che cosa sarà scritto sulla maglia dell'anno prossimo, 31 sul campo, con o senza le tre stelle, un po' come è stato l'anno scorso. Trovo tutto molto stucchevole, la Juventus è già nel futuro e farebbe bene a esserci del tutto, almeno io la penso così. No, ma sono d'accordo, anche perché mai quello che è passato, io penso che la Juve debba guardare avanti, debba avere proprio la sensazione di dire che ha fatto anche il sano qualcosa di straordinario, e diventa, come detto, un po' stucchevole questa cosa del 29-31. La Juve deve chiudere la storia passata, e invece la storia presente ci insegna che è una società che vuole e diventerà per tanti anni solida in Italia, ma non gli basterà più essere solida in Italia, ma vorrà guardare all'Europa, perché io voglio tornare a essere protagonista, secondo me, anche in Europa, perché Andrea Agnelli è un presidente vincente. Ha detto Conte, questo è lo scudetto della ferocia. Sottoscrivi o ci sono anche dei valori tecnici, oltre che tattici ovviamente, che sono frutto del suo lavoro, che rischiano un po' di essere nascosti da questa sottolineatura continua al carattere di questa squadra, la capacità di non mollare mai, che è sicuramente un ingrediente importante. Però l'impressione che abbia ragione Arrigo Sacchi quando un paio di settimane fa ha detto, però bisognerebbe avere l'onestà di dire che semplicemente questa Juventus gioca anche molto bene, come forse negli ultimi anni non si era visto giocare in Italia. Io penso che Antonio, quando abbia detto questa cosa dello stato alla ferocia, non ero anche molto d'accordo, perché non è stato solo uno stato alla ferocia. Antonio ha dimostrato di essere un allenatore che sa tanto di calcio, fa tanto di moduli. Non dimentichiamoci, negli ultimi due mesi ha cambiato questo vestito, che aveva preparato col 3-5-2, mettendolo al 3-5-1-1 per trovare posto a Pogba, avanzando a Marchisio. Quindi la ferocia, è vero, ci sta, perché comunque della motivazione, perché non è facile vincere due scudetti consecutivi. Però non è solo feroce, perché questa Juve gioca un grande calcio, un calcio veramente europeo, in verticale, quindi io penso che sia riduttivo dire che sia della ferocia, ma anche ferocia, e possiamo dire ferocia con il bel gioco. Vincendo sempre da qui al 19 maggio si batterebbe il record di punti sul campo. Fabio Capello, estate del 2006, e anche questo ovviamente è un cerchio che si chiude con quella che è stata la storia recente della Juventus. Secondo te ha senso parlare e provare a paragonare questa Juventus a quella di Lippi, a quella di Capello, provare a capire se è la migliore di sempre o almeno dell'era recente? Ma è giusto farlo, è giusto confrontarsi. Io penso che Antonio, essendo un allenatore ambizioso, voglia e vorrà in tutte le maniere abbattere quel record, perché poi battendo quel record potrà anche dimostrare alla gente, comunque anche alla società, per quello che poi chiederà sul mercato, che con giocatori discreti, qualcuno buonissimo ma altri discreti, è riuscito con un collettivo a fare qualcosa di straordinario. Quindi avrà ancora più forza per andare in società a chiedere giocatori per l'anno prossimo. Ma questa penso non è una Juve migliore di quella di Capello, di quella di Lippi? No, io penso che questa sia il frutto di un lavoro, un allenatore che ha dato a un collettivo che può essere da 7-7.5 farlo arrivare a 9. Il grande allenatore è quello che alza il livello della sua squadra. Allora io ero presente, tra i giocatori che andavano in campo, sono davanti, che c'era il Juve, Trezeguet o Del Piero in panchina, o Emerson in mezzo al campo, Thuram e Cannavaro dietro, c'era solo da spaventarsi quando scendevamo col pullman i giocatori, perché erano giocatori devastanti, era un ruolo compressore a livello di individualità, come collettivo un po' meno. Questa gioca anche meglio rispetto alla Juve di Capello. Con tutto il rispetto per Vucinic e Giovinco, il più scarso eri tu di quella Juventus, scherziamo, eh? sì. No, vabbè, eravamo a Pia, c'erano giocatori... Sì, qualche scarpone c'era anche lì, dai. No, ma perché lì era qualcosa, era veramente una... Era una squadra superiore, stiamo scherzando. Era una corazzata. Tutti convocati Magazine. Manca davvero così poco allo scudetto della Juventus che anche un grandissimo ex e grandissimo tifoso come Alessio Tacchinardi non sta usando scaramanzia per parlarne. Alessio, proviamo a guardare un po' sul futuro. Tu prima hai accennato anche del peso che Conte dovrà portare in società nel costruire il mercato della prossima stagione. Rispondimi sì o no, fra un anno saremo qui a parlare di Conte che se ne sta andando perché ha ambizioni superiori diverse, o secondo te la battaglia che sta conducendo anche a livello mediatico di interviste in questo momento con Marotta, con i suoi dirigenti, per cercare di convincerli a investire subito e molto, è qualcosa che può assicurare alla Juventus la guida di Conte ancora a lungo? Ma io penso che l'anno prossimo sarà un momento, una decisione molto importante per la Juventus, perché se vuole trattenere Antonio, quello che io penso che voglia trattenere, debba investire sul mercato. Vedo che si stanno muovendo, vedo che vanno a vedere partite di Champions League, perché è un giocatore importante. Quindi io penso che Antonio l'anno prossimo rimarrà alla Juve, perché la Juve creerà qualcosa di importante per aprire un ciclo anche a livello europeo. Se li convince quest'anno, poi Conte sarà parte di quel ciclo che sarà gioco forza, un ciclo di almeno 2-3 anni. Io credo che la grande scommessa di Conte oggi sia questa. Si parla molto di attaccanti, soprattutto c'è un giocatore che è Ibrahimovic, che si sta offrendo evidentemente con il suo procuratore alla Juventus. Negli ultimi giorni ha incassato un paio di aperture importanti, una di Pirlo, sentite Marchisio. Sta a guardare la sua carriera, ovunque è andato ha vinto, quindi è un grandissimo campione e se dovesse arrivare lo accoglieremo a braccia aperte, perché comunque può soltanto migliorare la nostra squadra. Poi se ci sarà qualcosa di vero bisognerà vedere poi il mercato e sarà la società che ne penserà. Alessio, mi sbilancio, personalmente credo che Ibrahimovic non sia l'uomo giusto per la Juventus, tu cosa pensi? Beh, però penso che Ibra, a prescindere che ha un ingaggio fuori di testa, però invece io penso che sia un giocatore che là davanti possa veramente spaccare le difese avversarie, perché la sensazione che ho io ci ho giocato insieme è quella che veramente la Juve ha bisogno. Ho perso di un attaccante, ma di un leader vincente e affamato. Ibra, se ha la testa giusta, ripeto, costa tanto, ma là davanti potrebbe veramente dare una ribaltata a questo attacco, proprio questa squadra, perché è un giocatore vincente, un giocatore che ha sempre fama di vincere un Liga. Sì, mi chiedo che valore aggiunto possa dare alla Juventus in Europa, visto che quello è il giardino che dall'anno prossimo la Juventus vorrà coltivare, ed è un giardino che Ibrahimovic conosce bene e nel quale di soddisfazioni non se n'è preso, e non sempre soltanto per colpa dei compagni che aveva intorno. No, quello è vero. Quello è vero, non è stato un grande vincente in Europa come dimostra la storia, però la sensazione che io è che questa squadra abbia bisogno di un giocatore che alzi livello. Mi chiama in mente Nocerino l'anno scorso con Ibra, era un giocatore devastante, lo vedo quest'anno, si è abbassato il livello. Quindi Ibra alza tanto il livello dei suoi compagni. Poi è vero che la storia insegna che Ibra in Europa ha fatto sempre male, ma è un giocatore, secondo me, che la Juve potrebbe dare ancora tanto se arriverà con la testa giusta. Quindi secondo te più lui dei vari Suarez, Higuain e altri nomi che si leggono vengono scritti in queste giornate? Ma guarda, se proprio devo investire, comunque io non investo su Ibra, perché è un giocatore ormai che sopra i 30 anni e vuole tanto. Detto questo, cerco di prendere un giocatore che può giocare anche in più ruoli. Però la sensazione che ho è che io penso che Conte l'anno prossimo voglia cambiare un po' il modo di giocare. Questo 3-5-2 o il 3-5-1-1 a livello pre-europeo fa un po' fatica. Ci vogliono più giocatori sulle fasce che spingono, che fanno l'uno contro uno, che attaccano in ampiezza. Quindi la sensazione mia è che la Juve vada a prendere non Ibra, ma giocatori più esterni. Suarez è un grande giocatore, Higuain meno. Higuain secondo me è un gradino meno, può fare un saltino di qualità alla Juve, ma non un salto di qualità importante dove veramente la Juve ha bisogno. Cavani sarebbe la ciliegina sulla torta. Sì, sarebbe anche un assegno da quasi 70 milioni, di euro. Grazie ad Alessio Tacchinardi. Ciao, grazie a voi. Grazie ad Alessio Tacchinardi. Domani il 5 maggio, la festa dei tifosi della Juventus. Saluto il direttore del DQS Quotidiano Sportivo, Enzo Bucchioni. Ciao Enzo. Buon pomeriggio. Robben e Ribéry insegnano, eh. Hai sentito Alessio Tacchinardi? Va bene cercare il top player in attacco, ma forse la Juventus farebbe bene a iscriversi alla nuova scuola. Ne ha scritto anche qualcuno in settimana, quella che dice che per trionfare in Europa bisogna allargare il campo prima di tutto. Ma assolutamente, bisogna andare a allargare il campo, cercare il fondo, mettere in mezzo dei cross, un calcio se vuoi un po' antico, ricorderete quando c'era la famosa ala destra che scartava e andava sul fondo a fare il cross, era un'azione classica, ma è anche il modo migliore per mettere in difficoltà le difese, quando al difensore arriva un pallone di lato e deve girarsi, lo affronta in maniera peggiore sicuramente, più facile neutralizzare un cross che arriva dal centrocampo dall'altra quarti, quindi quello è un gioco vecchio ma rimodernizzato assolutamente dal Bayern. Quando hai dei giocatori così sicuramente ti poni un pezzo avanti. Ma guarda, nel campionato italiano c'è la Fiorentina che sta giocando un po' in questo modo, con Cuadrado sulla destra che è un altro stampo e che fa un po' quello che fa Robben nel Bayern, e ha sull'altro lato Ljajić che è un giocatore che fa l'uno contro uno, cerca per l'uomo e va a fare la penetrazione, quindi è un calcio nuovo perché i cicli sono belli, però sono destinati a finire, ormai tutti ci stanno giocando con basta vedere il Barcellona, Enzo. Sì, ormai in Italia giocano tutti col 3-5-2 o almeno la maggioranza, che poi è facilmente neutralizzabile, soprattutto con la difesa 3, se tu la allarghi con due esterni come ha fatto poi il Bayern con la Juventus, se la mette in difficoltà. Io credo che le grandi squadre debbano giocare con più moduli tattici e questo credo che vorrà fare l'anno prossimo Conte. Non c'è dubbio. Enzo, ci aiuti a provare a decodificare questa 35esima giornata del campionato di Serie A, che io lo dico proprio perché sulla carta vede partite abbastanza scontate, secondo me è una giornata chiave. Faccio un esempio, questa sera c'è Fiorentina-Roma, la Fiorentina è in un momento straordinario di forma, difficile pensare che non vinca, domani sera c'è Milan-Torino, difficile pensare che il Milan non possa fare bottino pieno con il Torino, eppure io dico che a fine stagione queste sono le giornate più particolari, sono quelle che decidono, quelle dove si cade e poi non si recupera più. Mi viene in mente Roma-Sampdoria che spianò la strada allo scudetto dell'Inter ad esempio, ed era una partita che tutti davano per scontata. Condividi? Sì, assolutamente, guarda, io allargo anche l'orizzonte alla zona salvezza, perché se le cose vanno come dovrebbero andare, vi aggiungo il tuo discorso e aggiungiamo se, perché non vogliamo assolutamente parteggiare per nessuno, il Genoa dovrebbe vincere, il Palermo dovrebbe perdere contro la Juventus, 3 punti di vantaggio che sarebbero poi 3 giornate dalla fine difficilmente recuperabili, quindi hai ragione, hai ragionissimo, questa è una giornata veramente chiave per lo scudetto, per la zona di retrocessione, probabilmente per tutto, rimarrà aperto quel terzo posto, questa lotta fra Milan e Fiorentina che durerà fino all'ultima giornata. Sì, credo anch'io, anche se credo che il Milan abbia un'incollatura di vantaggio, almeno così mi sbilancio, come penso che per la salvezza pesi e molto il calendario favorevole del Genoa, e come penso ad esempio che l'Inter non abbia nulla più da chiedere a questo campionato. Sentiamo insieme Enzo Montella ieri alla vigilia di Fiorentina-Roma, che questa sera è una partita davvero tutta da vedere. Montella. Sicuramente il legame è ancora, l'affetto è ancora forte, perché sono trascorso 10 anni, perché vivo a Roma, perché ancora ci sono tantissimi amici adesso anche sulla panchina della Roma, anche con i collaboratori, quindi naturalmente non può essere una partita normale. Per noi vale molto, vale moltissimo, perché ai fini della classifica, perché secondo me con una vittoria saremmo quasi certi dell'Europa League, che a 3 giornate dalla fine sarebbe un successo, e poi si aprirebbero ancora scenari importanti per il terzo posto, quindi per noi è una partita fondamentale esclusivamente ai fini del risultato della nostra squadra, e lo è così anche per me. Mi intriga molto Enzo Bucchioni, direttore del QS, che in questo valzer di allenatori di cui si parlerà molto nelle prossime settimane, non solo in Italia, Montella sia un punto fermo, anche se ritengo che lo sia ancora per un anno, forse due, perché poi è allenatore destinato a progetti anche più grandi rispetto a quello della Fiorentina. Ma questo è sicuro, sembra un predestinato Montella, ma si era già visto quei pochi mesi che ha allenato la Roma, quando fu esonerato Ranieri 2 anni fa, è un allenatore nato. Sicuramente però in questo momento non conviene neanche a lui guardarsi attorno, conviene proseguire la sua carriera con la Fiorentina, che ha costruito una buona squadra, vuole fare ancora di più per la prossima stagione, come si dice si fa le ossa, aumenta la sua esperienza nazionale e internazionale, perché la Fiorentina una coppa è destinata a farla, se non quella più grande, quella più piccola ormai è lì, E quindi poi, come dicevi tu, se ne riparlerà fra 2 anni, perché ricordiamo Montella ha un contratto per un altro anno e poi l'opzione sul terzo. Ma io so che la Fiorentina gli proporrà a breve un altro prolungamento per fare un totale di 5 anni, perché i Della Valle credono che un ciclo possa durare 5 anni, un po' come successe con Prandelli, e dentro questo quinquennio provare a vincere qualcosa. Poi magari potrà decollare. Ricordiamo che Montella è giovanissimo, ci sono allenatori importanti oggi che alla sua età giocavano ancora, non hanno neanche cominciato a allenare. Quindi io credo che possa rimanere per questo quinquennio a Firenze e provare a vincere qualcosa in una dimensione così piccola, che vale ancora di più che andare a vincere in una squadra più grande. Non c'è dubbio, comunque questa sera Fiorentina-Roma, partita che vale davvero la pena. Davvero la pena seguire, e che credo sia una partita proprio chiave per cercare di capire come potrà finire la volata con il Milan per quel terzo posto che vale il preliminare di Champions League. Tanti soldi. Ieri Barbara Berlusconi ha ricordato che Allegri è bravissimo, ma se non arrivasse quel terzo posto certamente la stagione sarebbe fallimentare, amara, e a prescindere da ogni discorso sarebbe una pietra tombale anche sul futuro del tecnico nella prossima stagione sulla panchina del Milan. Grazie a Enzo Bucchioni. Grazie a voi, grazie a tutti, ciao, a presto. A presto, grazie Enzo Bucchioni, direttore di QS. Ci fermiamo, c'è meteo, pubblicità, poi torniamo. E a proposito di allenatori e di campionati che sono arrivati al momento dei verdetti, proviamo a vedere che cosa accade in questo weekend in Spagna, Francia, insomma nel resto d'Europa. Tutti convocati magazine. La verità è che siamo tutti tifosi del Real Madrid, siamo tutti tifosi del Marsiglia, perché vogliamo continuare a seguire i campionati europei almeno per un'altra settimana. La Bundesliga assegnata al Bayern Monaco, ma si era capito a Natale. La Premier League, che è già andata al Manchester United, domani lo abbiamo detto, festeggerà la Juventus in Italia. Restano aperti Liga Spagnola e Liga Francese. Buon pomeriggio a Federico Casotti, collega di Sport Italia. Buon pomeriggio Giovanni, un saluto a tutti gli ascoltatori. Restano aperti per modo di dire, perché la verità è che in questo weekend si potrebbero chiudere tutte e due, e per questo noi tifiamo Marsiglia e Real Madrid, dai, per restare sul pezzo almeno una settimana in più. Sì, ma io credo che questa stagione sia stata un gigantesco spot o per l'introduzione dei play-off o per una Superlega, perché mi pare che tutte queste, chiamiamole, stagioni regolari si siano concluse ampiamente in anticipo. E è vero che le volate per il secondo o terzo posto sono magari un po' più esaltanti, però insomma diciamo che non è la stessa cosa. Ecco. Sì, diciamo la verità, una noia mortale, dai. Diciamolo, anche se poi magari chi vince perché è più forte, e vince anche perché gioca bene, perché diverte. Però è chiaro che quando sono troppo più forti poi diventa anche meno divertente, ed è stato il caso ad esempio del Paris Saint-Germain, che ci ha messo un po' per dimostrare di essere veramente il più forte, di essere veramente la squadra migliore. Però poi, soprattutto nel girone di ritorno, direi che di dubbi ce ne sono stati pochi, anche perché la concorrenza, se mai c'è stata una concorrenza, ecco, non si è mai materializzata. Sì, si è piano piano sciolta. Paris Saint-Germain, che gioca domani sera alle 21 in casa contro il Valenciennes, conoscerà già il risultato di Marsiglia-Bastia, che è la gara di oggi. Si parte con 9 punti di vantaggio dei parigini, 73 contro 64 alla 34esima giornata. Adesso i calcoli falli tu, però diciamo che è difficile pensare di andare oltre questo weekend. Sì, ma teniamo conto che in Francia il titolo a pari punti viene assegnato grazie alla differenza reti, e la differenza tra la differenza reti del Paris Saint-Germain e quella del Marsiglia ci sono tipo 20-25 gol di differenza, quindi anche l'eventuale aggancio, che è più che teorico, mi sembra veramente veramente fantascienza. È un Paris Saint-Germain che ormai ha messo il motore in folle, perché praticamente essendo già uscito dalla Champions, uscito anche dalla Coppa di Francia, dove magari si poteva fare qualcosina di più, adesso l'importante è probabilmente quello di vincere il campionato il più in fretta possibile, fare una buona figura contro il Lione nella terz'ultima giornata in un big match che però riguarderà più che altro il Lione, e chissà, magari giocare per qualche statistica personale. Faccio un esempio: aiutare Ibra a superare quota 30 gol, che è un qualcosa che in Francia non succede da più di 20 anni, da da Jean-Pierre Papin, anche alla faccia di chi dice che sia facile segnare in Francia, ecco. Però credo che davvero il Paris Saint-Germain stia portando a casa la missione. Qualcuno dirà che il minimo sindacale è vincere il campionato, un campionato in due anni, e probabilmente è così. Però se va tutto relativizzato, e si tratta comunque del terzo titolo nella storia del Paris Saint-Germain. Il Paris Saint-Germain non vinceva il campionato francese da 19 anni, quindi diciamo che c'è anche giusto, secondo me, a Parigi, che a Parigi si festeggi e si assapori il momento. È giusto che si festeggi, ed è giusto anche dire che siamo i titoli di coda. Accadrà qualcosa di simile nella Liga questa sera alle 20 Real Madrid Valladolid, domani sera alle 21 Barcellona Betis Siviglia. La classifica dopo 33 partite dice Barcellona 85, Real Madrid 74. Probabilmente qui si andrà avanti di una settimana, perché è difficile pensare che il Real perda in casa con Valladolid, ma la verità è che anche qui da un paio di mesi è tutto deciso. Sì, io credo addirittura che il campionato nella testa del Real sia finito a settembre, quando il Real ha accumulato subito nelle prime giornate già un divario di 7-8 punti nei confronti del Barcellona, e io credo che già lì mentalmente il Real Madrid abbia pensato più che altro alla Champions League, poi con tutti i rischi che ne conseguono, e lo abbiamo visto in settimana, provando poi magari a togliersi le soddisfazioni nello scontro diretto, ma diciamo che il Real Madrid ha pagato la pessima partenza che ha avuto a settembre, tanto quanto la stagione precedente invece era stata proprio una partenza folgorante del Real Madrid a tagliare le gambe al Barcellona imprevedibilmente. E però alla fine un José Mourinho che si appresta a lasciare Madrid, proprio perché è stato lui per primo l'autore della... colui che ha alzato la posta in maniera forse anche eccessiva, esce francamente anche da sconfitto, perché alla fine quando in tre anni, con tutto quello che spendi e... Hai fatto tre semifinali di Champions, una Liga e un'altra praticamente nemmeno giocata, è difficile pensare che ti sia andata bene, perché l'effetto collaterale di tutto questo è che da lunedì, che è il 6 maggio, in realtà cominceremo a riempire le pagine dei giornali, le nostre discussioni da bar, semplicemente per cercare di capire cosa accadrà nel futuro. E allora, in tanti lo hanno scritto questa settimana, il nostro Giorgio De Luca l'ha voluto raccontare così con questa copertina, si aprirà anche, oltre al valzer dei top player, degli attaccanti, di quei giocatori che fanno sognare i tifosi, si aprirà anche il valzer delle panchine. Per un allenatore credo che è importante lavorare, trovare le condizioni migliori per poter esprimere la propria esperienza e le proprie conoscenze, e penso che qui ci sono le condizioni ideali. Siempre nos había dicho, no, es que todos sois iguales, el entrenador, para mí todos sois iguales, es la mentira mayor de... que existe en el deporte, no todos son iguales, ni todos tienen que ser tratados iguales. Can you see it? Can you see it? I know in England I'm loved. I'm loved by the fans, I'm loved by the media that treats me in a fair way. I know I'm loved by some clubs, especially one, and in Spain the situation is a bit different, because some people hate me. E come se lo amano in Inghilterra, José Mourinho, Federico Casotti, 10 milioni di sterline a stagione netti per tornare a Stamford Bridge, con un budget, mi pare di capire, più o meno senza limiti per costruire una grande squadra, che esce già tra l'altro da un mercato, quello dell'estate scorsa, che è stato un mercato importante. Direi che sul ritorno a Londra di Mourinho possiamo scrivere la parola fine, anche se lui sostiene di non aver ancora preso la decisione definitiva. Sì, ma è chiaro che la stagione è ancora in corso e con ancora degli obiettivi in piedi, almeno in teoria, è ovvio che di annunci ufficiali non se ne parla. Mi lascia un pochino perplesso il ritorno di Mourinho al Chelsea per due motivi. Il primo è il fatto che Mourinho ritorni in un posto dove tutto sommato è stato bene, anche se magari non è riuscito a vincere la Champions. Si invecchia per tutti. È un momento che la vinceva il suo assistente, non dimentichiamolo, perché la vinceva Grant. E dall'altra parte, nonostante la lezione di quest'anno della Champions League, della programmazione fatta in due modi diversi, di Bayern e Borussia, rispetto al semplice portafoglio senza fondo del Real Madrid, ecco che Mourinho insiste ancora su questa strada, cambiando semplicemente Lido, cambiando semplicemente il campionato, è un qualcosa che mi stupisce. Poi magari insistendo, chi la dura la vince avrà ragione lui, ecco. Però mi sembra un po' in controtendenza con i verdetti, quello che è emerso, la tendenza che è emersa in quest'ultima Champions. A me quello che incuriosisce invece è capire cosa succede a Parigi, perché un anno fa in questi giorni Leonardo diceva inizia un grandissimo progetto e poi l'estate si è incaricata di confermare che le risorse erano praticamente illimitate. Oggi si legge di Ancelotti che volerà a Madrid, che vuole portarsi dietro Verratti, di Ibrahimovic che non ne può più di Parigi e sta cercando di traslocare, si sta offrendo a mezza Europa. Abbiamo letto addirittura di Thiago Silva che tornerebbe volentieri al Milan. Che cosa sta succedendo? Innanzitutto dice tanto del personaggio Ibra il fatto che non ne possa più di Parigi, secondo me, soprattutto con quell'ingaggio. Ma al di là di quello, battute a parte, io credo che tutto nasca da un discorso. Il fatto che Ancelotti abbia preso la sua decisione di lasciare Parigi nonostante un campionato vinto, anzi proprio perché ha vinto il campionato e dunque può lasciare da vincitore, in qualche modo può prendersi una rivincita nei confronti di una dirigenza che è vero lo ha voluto fortemente un anno e mezzo fa, ma che poi non lo ha sostenuto. Non dimentichiamoci che a dicembre, dopo la sconfitta con Nizza, nel momento più difficile della stagione del Paris Saint-Germain, erano già iniziati dei contatti molto avanzati con parecchi allenatori, non tutti di alto profilo, perché contattarono anche Eric Gerets, che con tutto il rispetto non è proprio un alter ego, sì, di Ancelotti. Siamo su altri pianeti rispetto ad Ancelotti. E quindi credo che per Ancelotti ci sia la volontà di andare a Madrid, dove peraltro alla quale peraltro disse già di no nel 2009, perché un treno è già difficile che passi due volte, figuriamoci tre, e perché ha la sensazione che il Paris Saint-Germain lo possa esonerare magari in qualsiasi momento, come del resto fece col suo predecessore, con Guaré, che venne esonerato semplicemente perché non aveva un'immagine abbastanza glamour con la squadra che era in testa alla classifica. Non dimentichiamo neanche questo. È una dirigenza, quella del Paris Saint-Germain, che non guarda in faccia nessuno, mentre il Florentino Perez e in generale il Real Madrid hanno la sensazione, pur con esigenze elevatissime, di lasciar lavorare con più calma, e credo che questo sia prevalso in Ancelotti. E non è un caso che il Real Madrid abbia alle spalle una storia centenaria ad altissimi livelli e il Paris Saint-Germain sia più o meno neonato. Sono molto curioso di vivere la prossima estate di mercato, di capire davvero se resta qualcosa di questo progetto degli sceicchi di portare il Paris Saint-Germain in vetta all'Europa e di far crescere anche il calcio francese insieme al Paris. Eh sì, perché la colpa maggiore che viene data in Francia al Paris Saint-Germain è quella di spendere tanto ma di non spendere in Francia. Di conseguenza il Lione, per fare un esempio, il Lione dei 7 scudetti di fila, bene o male un acquisto da 15-20 milioni in Francia lo faceva tutti gli anni. Da questo punto di vista dovremmo tenere d'occhio il Monaco, che salirà sicuramente, al 99% lo guiderà ancora Claudio Ranieri. E magari ci verrà a prendere qualche campione. Federico, siamo quasi in chiusura, poi c'è il traffico, sì o no? Si parla di Falcao, prossima stella a Parigi. Potrebbe essere una possibile stella, o Falcao o anche Cavani. Potrebbe essere uno dei due, credo che alla fine arriverà a Parigi. Soprattutto se, come ormai certo, partirà Ibrahimovic, secondo me partirà anche qualcun altro, nomi tipo Menes, Lavezzi. Soprattutto Lavezzi, che con Ancelotti si è trovato bene, ma che senza Ancelotti a Parigi si troverebbe spaesato più o meno come Ibra. Bisognerà offrire qualcos'altro al palcoscenico di Parigi. Grazie a Federico Casotti. Grazie a te Giovanni, buon sabato pomeriggio a tutti. Grazie Federico, io ne approfitto anche per ringraziare Roberto Scaltritti in regia, Giorgio De Luca che è autore di questa trasmissione. Dopo il traffico ci tuffiamo sulle strade del Giro d'Italia. Tutti convocati Magazine. E ora andiamo sulle strade del Giro d'Italia, che proprio in questi minuti ha vissuto e sta vivendo il finale della prima tappa a Napoli, edizione numero 96. Due grandi favoriti, tanti protagonisti, non c'è Ivan Basso, il nostro Ivan Basso, fermato da un problema al soprassella. Ci siamo fatti raccontare le sue emozioni questa settimana in Tutti i Convocati, allora sentiamolo. Maledizione, mala suerte, sfortuna, come possiamo e vogliamo chiamarla questa notizia che è arrivata oggi, che ti toglie dal Giro d'Italia al quale ti stavi preparando per partecipare da protagonista? Ma ci sono poche cose da dire, c'è solo grande dispiacere, perché come potete immaginare per un atleta che investe tantissimo per questa corsa si trova così in un attimo a dover rinunciare al grande appuntamento dell'anno, quindi c'è grande dispiacere e niente più, insomma uno deve poi cercare di trovare così dentro di sé quelle soluzioni che gli permettono di ritrovare il sorriso e ovviamente di ripartire come spesso capita a tanti altri atleti. Sì, è un colpo duro per il morale perché si vedono svanire mesi di preparazione, perché poi il Giro d'Italia è una di quelle competizioni che sono centrali in una stagione per un ciclista di altissimo livello come sei tu. Ma guarda, non è un discorso solo di lavoro, la preparazione fa parte della mia quotidianità, quindi è un discorso un po' di dispiacere che parte da me, per la mia famiglia, per i miei compagni, la mia squadra, insomma tutte le persone che hanno collaborato con me in questi mesi hanno tutti un grande dispiacere perché perdiamo un'occasione importante, però... come ho detto questa mattina alla squadra, dobbiamo reagire tutti, loro che dovranno fare questo Giro d'Italia senza il leader e quindi devono cercare di farsi onore e se lo faranno oltretutto. E per me ovviamente domani avremo più chiaro come procedere e sui tempi di recupero e in ultimo dopo non siamo chiaramente al mese di ottobre, ci sono ancora 6 mesi di corse con ancora... altre sì, ci sono altre possibilità, altre gare, certo. Lavorare innanzitutto prima guarire e poi lavorare su un nuovo grande obiettivo che decideremo quando la mia condizione fisica sarà a posto. Certo, tu sei stato fermato, vieni fermato da un problema al soprassella che è purtroppo per i ciclisti una maledizione, non è una cosa così poco frequente. No, ma purtroppo questa non abbiamo ancora ben chiaro da dove sia arrivato il problema, è comunque una cosa che non mi permette di pedalare, quindi dovremo cercare nelle prossimi giorni con accertamenti specifici capire come mai, perché non c'è stato nessun segnale di preavviso, quindi questo è... Principalmente bisogna capire perché è venuto questo, dopodiché decideremo la terapia adeguata e in ultimo, una volta che sono guarito... Anche la tabella di ritorno. La tabella di ritorno. Una settimana fa a Romandia hai preso 19 minuti da Froome, io ho letto che tu ti eri difeso dicendo che si trattava di un passaggio fisiologico per chi stava preparando una competizione come il Giro d'Italia, non c'erano segnali premonitori? No, ma io non mi ero assolutamente difeso. Avevi spiegato. Non c'era nessun tipo di allarme fino a quel momento, perché è stata comunque una giornata molto particolare, una giornata difficile e quindi avevamo deciso di affrontarla in quel modo. Ecco, questo è stato il nostro primo pensiero. Infine, non avevo nessun tipo di problema perché... avevamo il nostro programma di avvicinamento era identico a quello del 2009 e del 2010, che aveva dato sempre degli ottimi risultati, non solo a Basso ma a tutta la squadra. Certo. Non vedo perché quest'anno non avrebbe dovuto dare. Quindi non c'è nessuna relazione tra quel pomeriggio, quella giornata e quello che no, poi è emerso in queste ore. È stata una cosa improvvisa di ieri mattina che ha portato poi velocemente al rigonfiamento di tutta la parte e quindi poi al verdetto. Per chiudere, Ivan, e ti ringraziamo, giro da spettatore, purtroppo tuo malgrado, in poltrona, dobbiamo aspettarci spettacolo Wiggins, Nibali, dai, dacci il tuo pronostico, la tua bussola su questo giro. Ma guardate, io credo che i due favoriti sono sempre gli stessi, c'è solo un antagonista in meno di quelli che potevano inserirsi nella lotta, però resta comunque un Giro d'Italia pieno di campioni che sapranno onorare al meglio questa corsa. Grazie Ivan. A voi buona giornata. Queste erano le emozioni di Ivan Basso. Questo è un Giro d'Italia che attraversa un paese, l'Italia, in un momento di crisi profonda. Giro che resta sempre una vetrina nel mondo del Made in Italy. Un Giro d'Italia che ha una ricaduta d'affari da oltre 100 milioni di euro. Sentiamo l'intervista al direttore del Giro d'Italia, Michele Acquarone, realizzata da Dario Ceccarelli. Senta, allora quasi ci siamo. Dopo 50 anni si riparte da Napoli. Perché Napoli rappresenta bene i contrasti dell'Italia? Napoli è una delle città più belle d'Italia e del mondo e quindi qua il migliore palcoscenico per noi. Inoltre ricorre la ricorrenza dei 50 anni della volta in cui partì da qui, l'unica volta in cui partì da qui, e quindi era bello rilanciarlo. E in ultimo direi che il sindaco De Magistris l'ha veramente fortemente voluto, perché nel suo programma di rilancio della città attraverso i grandi eventi sportivi il Giro non poteva mancare. Senta, ma cosa vuol dire organizzare oggi un Giro d'Italia? vuol dire riuscire a coordinare il lavoro di circa 1000 persone che in un modo o nell'altro ruotano intorno alla nostra carovana, e riuscire a essere all'altezza con i più grandi eventi sportivi al mondo, e vuol dire regalare al nostro paese così in difficoltà una meravigliosa vetrina, una meravigliosa pubblicità del Made in Italy che va in tutto il mondo. Ecco, l'ha detto lei, non è un periodo facile, la crisi immagino si sentirà anche per organizzare un Giro d'Italia. È ancora un affare o lo fate proprio perché ci avete il cuore? No, il cuore viene prima di tutto, se no non si riuscirebbero a fare affari, secondo me. Però è sicuramente un affare, perché malgrado tutte le difficoltà, malgrado tutto, se poi lei pensa al nostro sistema editoriale, alla vicinanza con la Gazzetta, è un momento di promozione del marchio della Gazzetta e comunque anche un'opportunità di fare network e anche di guadagnare, unica al mondo, sul serio. Più o meno un giro d'affari me lo sa quantificare? Noi l'anno scorso, dopo il Giro d'Italia, avevamo fatto una ricerca con Nielsen e da questa ricerca usciva che la ricaduta sul territorio è di oltre 100 milioni di euro tra l'indotto che proprio si porta in giro la carovana, chi lavora, gli addetti ai lavori, ma anche tutti i tifosi che raggiungono il nostro paese per il giro, e tutto quello che rimane nel medio-lungo termine per la promozione turistica del nostro paese, perché se lei ci pensa non c'è uno sport come il ciclismo in grado di far vedere tutte le meraviglie di un territorio. Il calcio in uno stadio, il basket in un palazzetto, noi siamo per la strada. Quanto costa un comune ottenere una tappa al giro? Dipende, perché comunque disegnare un giro è una delle cose più complicate. Noi abbiamo una squadra capitanata da Mauro Vegni, che ha grande esperienza e riesce a incastrare 1000 necessità, perché i comuni ovviamente devono ospitarti e per loro è un impegno, ma dall'altra parte è anche un'opportunità, come dicevamo prima. E quindi dipende, perché non è che c'è un listino come io vado al supermercato e so quanto costa. E dipende anche dalla situazione in cui è il comune, se deve rifare le strade, se deve sistemare, se ci sono. Le faccio solo un esempio: il Col du Galibier, dove arriveremo quest'anno, ha il problema della neve, perché siamo altissimi e c'è la neve. Loro è un mese e mezzo che stanno lavorando, sminando proprio, fanno esplodere le mine in quota per evitare valanghe durante il giro, per buttare a terra la neve e poi puliscono la strada, sminano, quindi ci dicevano che ha speso soltanto 200.000 euro per fare questa operazione, quindi dipende poi da comune a comune anche l'entusiasmo che il comune ci mette. Insomma, si va su cifre significative, magari per esempio per la tappa finale di Brescia, così per dare un'idea agli ascoltatori. Ma io per darle un'idea parliamo di centinaia di migliaia di euro. Ma la carovana del Giro, quanti sono tutti, giornalisti compresi? Si riesce a dare un numero? Io posso dirle che solo noi come RCS, per la nostra parte, compriamo durante ogni edizione del Giro più di 20.000 camere d'albergo, e questo è un numero significativo. Ma da questo sono fuori alcuna parte dei media, la RAI che cura la produzione, e sono fuori tutti gli sponsor delle squadre, gli ospiti delle squadre e i tifosi. Noi nella nostra stima crediamo che questo numero raddoppi, quindi si parla di circa 40.000 camere d'albergo durante tutta l'edizione del Giro. Bene, una volta si diceva patron, adesso direttore. Cosa è cambiato dai tempi di Toriani? Ma diciamo che Toriani è patron perché era veramente un po' il padrone della corsa. Io sono un umile impiegato che lavora per un grande gruppo e ha l'opportunità di lavorare per un prodotto meraviglioso. Senta, ultime due cose. Il Giro è anche un'occasione per vedere l'Italia. L'Italia nel bene, l'Italia nel male. So che passate dal Vajont, so che passate da Busseto. Ecco, perché questo continuo sodalizio? Perché noi ci teniamo a raccontare il nostro paese, come dicevo prima, ci guarda tutto il mondo, le dirette del Giro andranno in tutti e cinque i continenti, quest'anno abbiamo quasi 180 paesi collegati, che è un numero grandissimo, quindi ci vedono tutti, e allora a questo punto dobbiamo raccontare l'Italia, dobbiamo raccontare il bello di ieri, il bello di oggi e il bello di domani. Noi cerchiamo veramente di portare un po' di rosa in questo periodo grigio. Farà il tifo per Nibali? Io faccio il tifo per tutti questi ragazzi, perché sono 207 corridori che corrono 3.500 chilometri. Io non riesco neanche a immaginare l'allenamento, la preparazione fisica e mentale che ci vuole per fare un Giro d'Italia e che vinca il migliore, su serio. Ma ci dica la verità, lei va in bicicletta a tempo libero? Guardi, io sono un manager, non ho mai toccato una bicicletta in vita mia, mi sono ritrovato con grande piacere a fare questo lavoro, ma non so tanto di bicicletta. Per fortuna una squadra molto competente di persone che queste cose le sanno, tra questi c'è, io non dimentico, Stefano Allocchio, che è stato un grande velocista degli anni 80, che lavora nella nostra squadra, si occupa dei rapporti con i corridori, di tutta la parte di sicurezza, e quindi c'è chi sa andare in bici molto bene all'interno della nostra organizzazione, non io. E vi ricordo che Radio 24 seguirà con grande attenzione il Giro d'Italia, gli speciali alle 7 del mattino e alle 19, poi il contributo prezioso di Ivan Basso, che non corre al Giro ma rimane con noi come opinionista. Abbiamo finito, ci fermiamo qui con tutti i convocati, l'appuntamento è per lunedì, tornerà Carlo Genta a partire dalle ore 14. Un saluto da Giovanni Capuano.